Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quarto, versi 563-802. Libro quinto, versi 1-45. Cadmo, fondatore di Tebe, piange sua figlia Ino e il nipotino Melicerta, precipitati in mare dall'ira di Giunone e trasformati da Nettuno in divinità minori. Che sua figlia e il suo nipotino siano divinità delle acque, Cadmo lo ignora, schiacciato dal lutto e dalla raffica delle sciagure e da tutti i portenti che ha visto, abbandona la città che ha fondato, quasi che la fortuna infierisse sul luogo, non su di lui, e profugo, in capo a un lunghissimo errare, guadagna insieme a sua moglie la terra di Illiria. Mentre, oberati dagli anni e dai guai, van rievocando le antiche disgrazie di casa e rivanno le pene passate, chissà che il serpente che quando lasciammo Sidone infilzai con la lancia, spargendone poi i denti di vipera, strana semenza, dice Cadmo, non fosse un sacro serpente. Se sono così decisi a vendicarlo gli dèi, tanto vale che strisci anch'io sul ventre come un serpente. Detto come un serpente, si snoda tutto sul ventre, sente crescer gli squame sulla pelle indurita, sente il corpo annerirsi e macchiarsi di chiazze bluastre e piomba bocconi, mentre le gambe, fuse in un'unica gamba, a poco si affusolano in una coda a punta. Non gli avanzan che braccia, tende le braccia avanzate e col viso ancora umano, rigato di lacrime, dice: «Vieni, vieni da me, mia povera moglie, e finché di me resta qualcosa, toccami, prendimi, cara, per mano, finché mano sarà, finché io non sarò tutto serpente». E vorrebbe dire di più, ma d'improvviso la lingua gli si biforca, la voce non basta alle parole che gli vengono da dire, e se tenta di esalare un lamento, sibila, unico suono che gli conceda natura. Battendosi il petto nudo, la moglie gli grida: «Cadmo, sta qui, sciagurato, spogliati di quell'orrore che hai addosso. Che succede, Cadmo? I piedi dove sono? Le spalle, le mani, e il colore, e la faccia, e tutto, che fine stanno facendo? Perché non cambiate, celesti, anche me in un serpe del genere?» Non dice che questo, e lui lecca il viso alla povera moglie. Fra quei seni si infila, carissimi come chi ben li conosca, la abbraccia, si aggrappa a quel collo come si aggrappa da sempre. Tutti gli astanti, e astanti sono tutti i compagni, atterriscono, ma lei di quel serpe crestato carezza il viscido collo, quand'ecco che sono in due a strisciare intrecciando le spire, finché non vanno a cacciarsi dentro un boschetto vicino. Ancora oggi non fuggono l'uomo né lo assalgono a morsi, serpenti mansueti che non si scordano chi sono stati. Non di meno a consolarli entrambi di quel mutamento provvide il nipote, nipote che l'India domata adorava e la Grecia faceva oggetto di culto in appositi templi. Non restava che Acrisio, figlio di Abante e suo consanguineo, a bandire Bacco dalla città di Argo, ad armarglisi contro, a pensare non fosse figlio di Giove, come figlio di Giove pensava non fosse Perseo, che Danae aveva, ma sì, concepito sotto un diluvio d'oro. Ma presto Acrisio, tanta è l'evidenza del vero, si pente di aver oltraggiato il nume e disconosciuto il nipote, l'uno già assunto in cielo, l'altro nell'atto di chi riporta le memorabili spoglie d'un mostro crinito di serpi, tracciando l'aria sottile d'un sibilo d'ali. E nel sorvolare trionfante le sabbie di Libia, gli sgrondano dalla testa mozza della Gorgone gocce di sangue che il suolo assorbe animandosi d'un campionario di serpi. Di qui la ressa di rettili che infesta quelle regioni. Poi, nell'immenso sospinto dalla zuffa dei venti, volteggia di qua di là come fa una nuvola gonfia di pioggia. Dall'alto contempla le terre emergere dalle acque e il mondo intero trasvola. Si imbatte 3 volte nel gelo delle orse, 3 volte si imbatte nelle chele del cancro, ora verso il tramonto, ora sbanda verso l'oriente. Finché al calar della sera, non osando affidarsi alla notte, prende terra in Esperia, nei regni di Atlante, e si accorta una minima sosta in attesa che Lucifero convochi i rossi barlumi di Aurora, Aurora il cocchio del giorno. Lì Atlante viveva, figlio di Giapeto, enorme di stazza, più di ogni mortale. Regnava sull'estremità delle terre e sull'oceano, che offre la sua distesa ai cavalli trafelati del sole ed accoglie il suo bel carro sfiancato. 1000 greggi e altrettanti armenti erravano per i suoi pascoli e nemmeno un vicino, incombendo, i campi ne minacciava. Foglie che sfavillavano lo sfavillio dell'oro coprivano rami d'oro e frutti d'oro. Così Perseo gli dice: «Straniero, se la gloria d'un nobilissimo sangue può emozionarti, io sono sangue di Giove. Se ammiri le grandi imprese, ammirerai le mie. Ti chiedo il riposo degli ospiti». Ma a lui torna in mente l'antico oracolo che gli ha reso Temi sul monte Parnaso. «Tempo, Atlante, verrà che i tuoi alberi si spoglieranno dell'oro e un figlio sarà di Giove a vantarsi del furto». Questo temendo, Atlante aveva cintato i frutteti di solide mura che un drago orribile piantonava, respingendo dai propri confini qualsiasi straniero. Risponde: «Vattene se non vuoi che le gesta che vai millantando vadano in fumo, che vada in fumo il tuo Giove». A minaccia aggiunge violenza e tenta di espellere a pugni l'eroe che traccheggia fermezza avvicendando a buon senso. Molto inferiore di forza, chi pareggia la forza di Atlante? «D'accordo, se di me così poco t'importa, eccoti servito», dice, e girando indietro la testa brandisce con la sinistra l'orribile ceffo della Medusa. Quanto era grande, Atlante è fatto montagna, la barba, i capelli sono foreste, le spalle e le braccia giogaie. Quel che un tempo era testa diventa vetta di monte, le ossa diventano rupi. Si dilata da tutte le parti all'infinito. Dei, voi lo avete voluto, e l'intero cielo, con tutte le stelle, da allora poggia su lui. Eolo, figlio di Ippota, ha rinchiuso i venti nel carcere etneo. Lo sfolgorio di Lucifero al sommo del cielo al lavoro convoca, e Perseo riprende le ali, le applica alle 2 caviglie, cinge la spada ad unca e, attivati i sandali, fende l'aria nella sua limpidezza. Gli sfilano sotto e tutto intorno innumerevoli popoli, finché non ha vista gli etiopi il regno di Cefeo. Lì l'inesorabile Ammone aveva disposto che Andromeda scontasse innocente la boria di sua madre Cassiope. Appena la vede, le braccia incatenate alla roccia, se una brezza leggera non le agitasse i capelli e gli occhi non le versassero un tiepido pianto di marmo, la penserebbe. Lui, pronipote di Abante, invaso da un fuoco ignoto, stordisce e, rapito da tanta bellezza, per poco non si dimentica di battere le ali nell'aria. Prende terra e, tu che non sei fatta, dice, per queste catene, semmai per quelle che stringono insieme amanti bramosi. Dimmi il nome qual è di questo paese, il tuo nome, e perché ti han legato così? Lei non apre bocca, lei, vergine, non rivolge parola a un uomo maschio, e se non le avesse legate, con le sue mani, coprirebbe il viso per bene. Non può che piangere, gli occhi le traboccan di lacrime. Poi a lui che la incalza, per non sembrare che voglia nascondere sai che delitti, dice il suo nome, il nome del paese, e quanto sua madre contasse sull'essere bella. Ma non aveva finito di dirlo che le onde rimbombano e dall'immenso grembo del mare sbuca una belva che domina la distesa delle acque col suo corpaccio. Grida la vergine, accorre il padre, accorre la madre, tutti e due disperati, la madre a maggior ragione. Ma aiutarla non possono, per tanta sventura non hanno che gemiti e un abbarbicarsi in pianto a quel corpo in catene. Lo straniero allora dice: «Ne avrete di tempo per piangere quanto vorrete, non resta che un attimo per l'azione. Se a chiedervi la sua mano fosse il Perseo ch'io sono, figlio di Giove e di quella che Giove ha fecondato d'oro in prigione, io, vincitore della Gorgone, chiomata di serpi, che vado per l'aria in un fremito d'ali, certo mi scegliereste fra tutti per genero, e a tanti titoli conto di aggiungere, ai numi piacendo, un titolo in più, patti chiari. Se il mio valore la salverà, sarà mia». Accettano i genitori, potrebbero non accettare, e lo scongiurano. In più gli promettono un regno per dote. Ecco, come una nave che col rostro proteso si avventa solcando le acque sull'impeto di giovani braccia sudate, così la bestia, arando con la furia del petto le onde, dista ormai dallo scoglio non più di quanto il proiettile, mulinato da una fionda baleare, percorra di cielo, e subito il giovane eroe, puntati i piedi per terra, spicca il volo e sparisce fra i nuvoli. La sua ombra si sagoma appena sullo specchio dell'acqua che il mostro sulla sagoma d'ombra infierisce. E come l'uccello di Giove, se vede in aperta campagna sciorinare una vipera al sole il dorso bluastro, la assale da dietro e per impedirle di girare l'orribile bocca le ficca gli artigli bramosi fra le scaglie del collo, così, fiondandosi a volo nel vuoto, il nipote di Inaco piomba sul dorso della bestiaccia che si dimena e le pianta fino all'elsa la spada ricurva sotto la scapola destra. Straziata dalla ferita, quella una volta si impenna nell'aria, un'altra si tuffa sott'acqua, un'altra poi si dibatte come un cinghiale atterrito da un branco di cani. Perseo agli avidi morsi si sottrae in un battere d'ali e dove trova scoperto rimena la spada falcata, ora sul dorso incrostato di cave conchiglie, ora in mezzo alle costole, ora dove la coda talmente si assottiglia da rendersi coda di pesce. La belva vomita acqua di mare mista a sangue scarlatto. Gli spruzzi, imbevendo le ali di Perseo, le appesantiscono. E lui, non fidandosi più di quei suoi sandali zuppi, avvista uno scoglio che con la cima affiora dall'acqua quando è tranquilla. Sparisce se il mare è mosso. Lì a terra e aggrappato con la sinistra i primi ronchioni di roccia, le caccia negli intestini 3-4 volte la spada. Un baccano di applausi riempie la spiaggia e si leva fino alle dimore celesti. Il padre Cefeo e Cassiope, entusiasti, salutano il genero che proclamano fondamento e salvezza della famiglia. Liberata dalle catene, si fa avanti la vergine, causa e premio di tanta impresa. lui si lava con l'acqua le mani vittoriose e ad evitare che la ruvida rena guasti il capo crinito di serpi, ammolla la terra di foglie, stende uno strato d'alghe cresciute sott'acqua e vi appoggia la testa della medusa. L'erba appena strappata assume nel vivo midollo poroso la forza del mostro e irrigidisce al contatto nel diramarsi assumendo una durezza mai vista. Da allora le ninfe del mare giocano a riprodurre il prodigio con altri rametti, si divertono a riuscirci e moltiplicati così tornano a seminarli in mare. Ancora oggi i coralli conservano la proprietà di indurire al contatto con l'aria, per modo che ciò che nell'acqua non era che alga, estratto dall'acqua, diventa di sasso. Tre altari di zolle dedica a tre dei, l'eroe, il sinistro a Mercurio, il destro a te, vergine in armi, a Giove quello di mezzo. Immola una vacca a Minerva, un vitello al dio dai sandali alati, un toro a te, re degli dei. Andromeda, premio di tanta impresa, la porta via subito, senza pensare alla dote. Imene ed amore sventolano le torce, si nutrono i fuochi di profumi a profusione, si appendono festoni alle travi di casa e cetre e flauti e canti echeggiano dappertutto a testimoniare la letizia dei cuori in festa. Spalancate le porte, si vede la fuga degli atrii dorati e dignitari etiopici affluire al fastoso banchetto allestito dal re dei Cefeni. Finita la cena, si espandono i cuori al prodigo dono di Bacco e Perseo si informa su culti e costumi del luogo, sulle abitudini ed anche sul carattere degli abitanti. Esaurito il ragguaglio, e adesso, fortissimo, dici tu, con quanto coraggio, ti prego, dice Cefeo, con quante astuzie tu sei riuscito a mozzare la testa crinita di serpi. Racconta il nipote di Agenore come sotto il gelido Atlante ci fosse un luogo protetto da muraglioni di roccia, come sull'ingresso abitassero due figlie gemelle di Forco che a turno fruivan di un unico occhio, come lui stesso, mentre se lo passavano, con fulminea destrezza lo carpisse interponendo la mano, come per piste nascoste, come per rupi scapigliate d'aspre boscaglie, giungesse alla casa delle Gorgoni, qua e là per i campi, avendo notato parvenze di uomini e d'animali convertiti in pietra alla vista della medusa. Ma lui, di questa orrenda medusa, non vede che il viso riflesso nello scudo di bronzo che regge col braccio sinistro, e quando un sonno di pietra la schiaccia con tutti i serpenti, le stacca la testa dal collo, che poi dal sangue materno nasceranno Pegaso, alato cavallo, e il fratello di Pegaso. Aggiunge i rischi concreti corsi nel lungo tragitto, che mari, che terre vedesse dall'alto sotto di sé, quante stelle sfiorasse in un palpito d'ali, e qui alla sprovvista tace. Uno dei dignitari domanda come mai una sola delle sorelle porti in testa serpenti intercalati ai capelli. E l'ospite, quel che mi chiedi merita una risposta. Questo il motivo. Accendeva speranze e gelosie in un mare di pretendenti la fragorosa bellezza di lei che nulla aveva di più splendido dei suoi capelli, nulla, oh sì, conosciuto chi sostiene di averli visti. Si dice che il re del mare l'abbia stuprata in un tempio di Minerva. La figlia di Giove avrebbe girato la testa coprendosi gli occhi con l'egida e, per punire l'oltraggio, avrebbe mutato i capelli di medusa in serpenti orrendi. e ancora oggi, per terrorizzare nemici e allibiti, la dea porta sul petto vipere che si è fatta da sé. Mentre in mezzo agli etiopi il figlio di Danae rammemora e racconta, una folla in tumulto si accalca dentro il vestibolo della reggia e non sono di certo festosi canti di nozze, anzi il frastuono preannuncia un torvo ricorso alle armi. Di colpo al banchetto subentra uno scompiglio che puoi assimilare a un tranquillo specchio d'acqua ove la collera furibonda dei venti lo stravolga di cavalloni. Alla testa del branco Fineo, bellicoso provocatore, brandisce un'asta di frassino con la punta di bronzo. «Eccomi, eccomi qua a vendicarmi di chi mi ha rapito la sposa. Né le tue ali, né Giove contraffatto in oro potranno sottrarmiti», urla. E da lui che sta per lanciare, Cefeo grida: «Sei pazzo, che fai? Che delirio, fratello, ti istiga al delitto. Lo ringraziamo così di quello che ha fatto. Sarebbe questo il compenso per avermi salvato la figlia. Non è stato, pensaci bene, non è stato Perseo a sottrartela, ma il rancore delle Nereidi, ma Ammone con tutte le corna, ma il mostro di mare, bramoso di ingozzarsi delle mie viscere. Ti è stata rapita nell'attimo in cui l'hanno esposta alla morte, a meno che tu non sia tanto crudele da desiderarla morta per consolarti con il mio lutto, fratello. Non bastava che stavi a guardare quando la incatenarono, senza muovere un dito né da zio né da fidanzato. E ora che fai? Ti rammarichi che un altro l'abbia salvata e vorresti togliergli il premio? Ti sembra eccessivo? Potevi andartelo a prendere tu sugli scogli dove era in catene. Sopporta che chi ci è andato e consola la mia vecchiaia riceva quel che si merita e gli è stato promesso. Ragiona. Non l'ho preferito a te, l'ho preferito alla morte. Quello niente. Ora punta suo fratello, ora punta Perseo, indeciso se colpire prima Perseo o suo fratello. Ma dopo un minimo indugio scaglia la lancia con tutte le forze che l'ira gli presta contro Perseo e lo manca. La lancia si pianta nel letto ed è a questo punto che Perseo salta su dai cuscini e furente, rilanciandogli contro la lancia, sfonderebbe il petto al nemico se quello non si cacciasse dietro l'altare, l'altare che infamia salva l'infame. Ma il colpo a vuoto non va. La punta si pianta in fronte a Reto, che strappandosi il ferro dall'osso stramazza e scalcia e spruzza di sangue la tavola apparecchiata. Allora sì che la plebe si accende di irrefrenabile rabbia, volano lance e c'è chi propone di uccidere Cefeo e suo genero. Cefeo però ha lasciato il palazzo, giurando sulla giustizia, sulla lealtà, sugli dei ospitali, che quel che succede va contro la sua volontà.